La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori Radio 24. Sono le 16:30 primi e 37 secondi in diretta da Milano. Vi saluta e vi ringrazio per l'ascolto. Come sempre, Oscar Giannino, in diretta o in podcast. L'indirizzo è la versione di Oscar @radio24.it. Vi dico subito di cosa parliamo oggi per chiedervi se volete telefonare all'800 24 0024. Oggi parliamo di Rai perché ci sono due novità. La prima novità è che il governo si avvia, secondo indiscrezioni giornalistiche che trovate su molti quotidiani, per esempio Repubblica, oggi pagina 11, a non considerare applicabile alle star della RAI, quindi agli artisti, ai grandi conduttori, eccetera, il tetto di 240.000 euro. Siete favorevoli o contrari secondo voi? È giusto esentarli? Spiegheremo adesso il perché, poi avremo due ospiti per approfondire. E questo è il primo fatto. Il secondo fatto è che ieri, in occasione del fatto che sono in corso le audizioni sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio per il rinnovo della concessione di servizio pubblico alla RAI, ieri c'è stata l'audizione del Presidente dell'Autorità di Garanzia dei Mercati, cioè l'Antitrust, il professor Giovanni Pitruzzella. E il professor Giovanni Pitruzzella è intervenuto su un secondo aspetto. Ma è giusto o meno che il canone pubblico vada alla RAI, visto che la RAI fa sia attività di servizio pubblico, anche se la convenzione non li definisce bene, dice il presidente dell'antitrust, ma fa anche intrattenimento commerciale, o è una impropria distorsione della concorrenza? Il presidente Pitruzzella propone, da molti anni in realtà l'antitrust, dal 2004 lo propone, che le due attività, quella di servizio pubblico e quella commerciale, vadano separate nettamente in RAI, ma questo non avviene. Sarebbe giusto secondo voi seguire le indicazioni dell'antitrust, oppure è giusto che la RAI continui in maniera indifferenziata servizio pubblico e trasmissioni commerciali di intrattenimento, avendo il canone mentre le altre televisioni commerciali non ce l'hanno, come ovvio? Ecco, queste sono le due questioni di cui parliamo oggi. Prima di presentarvi gli ospiti, brevemente qualche cenno su questi due punti. Perché il governo è pronto a muoversi per esentare le star della RAI dal tetto di 240.000 euro? L'Avvocatura Generale dello Stato ha redatto un parere secondo il quale è ancora vigente una norma della finanziaria del 2007 che appunto teneva fuori da ogni vincolo di retribuzione la prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato. Ecco, questo è il fondamento. L'Avvocatura Generale dice che quella norma non è mai stata abrogata, quindi anche se il tetto generale successivo di 240.000 euro è intervenuto per via del governo Renzi e tutta la pubblica amministrazione, nella realtà, non avendo esentato quella norma, ecco che quella norma del 2007 consente di tenere il tetto delle star della RAI non applicato entro i 240.000 euro. E questo è il fondamento della esenzione del tetto per le star della RAI. Invece andiamo a vedere che cosa ha detto ieri Pitruzzella a proposito della convenzione di concessione del servizio pubblico, che vi ricordo è decennale alla RAI, era in ritardo, eccetera, eccetera, non è stata accompagnata dalla promessa dal precedente governo approfondimento di che cosa sia davvero il servizio pubblico. E a un certo punto, a pagina 4 del testo dell'audizione Pitruzzella, che trovate ovviamente sul sito dell'AGCM, Autorità di Garanzia e Controllo del Mercato, quindi l'antitrust, a un certo punto il professor Pitruzzella dice: dal punto di vista degli obiettivi, anche in passato, ripeto, dal 2004, si è rilevata l'esigenza da parte di questa autorità di definire in dettaglio l'estensione del servizio pubblico, in considerazione del fatto che anche ai sensi dello schema di convenzione la RAI svolge sia attività pubblicistiche che attività prettamente commerciali. Definire chiaramente i contenuti del servizio pubblico costituisce un passo necessario anche per assicurare una efficace separazione tra quest'ultimo, cioè il servizio pubblico, e le attività commerciali. Si auspica quindi che l'oggetto della concessione e la definizione della missione di servizio pubblico, radiofonico, televisivo e multimediale sia declinata in dettaglio e che nella Convenzione si riconosca tale esigenza, che può essere soddisfatta appunto in sede di definizione del contratto di servizio. Il contratto di servizio serve proprio, dopo aver definito in cosa consista il servizio pubblico, alla sua attribuzione all'azienda a cui viene attribuita, cioè la RAI. Quanto alle modalità di finanziamento, prosegue Pitruzzella, la bozza di convenzione qui in esame prevede che il concessionario, cioè la RAI, possa utilizzare fonti di finanziamento miste derivanti sia dal canone che dalla raccolta pubblicitaria. L'antitrust ha già avuto modo di evidenziare la necessità di assicurare che le risorse pubbliche siano utilizzate esclusivamente per l'assolvimento del servizio di natura pubblica e dunque che tale forma di finanziamento non vada ad alterare il normale gioco della concorrenza nel mercato della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo. Quindi, come vedete, il governo dice che alla RAI verranno esentate le star dal tetto di 240.000 euro perché serve alla RAI per fare concorrenza. Pitruzzella, nello stesso giorno, ieri, a proposito del decreto che conferma la concessione di servizio pubblico alla RAI, dice: no, veramente la concorrenza è messa sotto schiaffo dal fatto che, senza definire precisamente in cosa consista il servizio pubblico di cui gli stiamo ridando la concessione alla RAI, si consenta l'utilizzo del canone. Questo sì che distorce la concorrenza. E più avanti, infatti, torna a pagina 5 Pitruzzella su questo, deducendone una conseguenza, cioè ai fini di attribuire il canone solo alle finalità di servizio pubblico, ecco che l'autorità antitrust chiede che ci siano, leggo, soluzioni strutturali che consentano di distinguere chiaramente l'attività svolta per la fornitura del servizio pubblico rispetto all'attività prettamente commerciale. Si prende atto che questo obiettivo, la separazione, in questa bozza di convenzione si realizza attraverso lo strumento della separazione contabile. Ma, continua a quel punto Pitruzzella, alla luce del funzionamento storicamente non pienamente soddisfacente di tale misura, cioè la separazione contabile, si auspica invece che possano essere realizzate forme di separazioni più incisive che introducano garanzie superiori rispetto a quelle della separazione contabile, cioè in virtù del fatto che la condizione in cui RAI si ritrova con un'offerta televisiva al pubblico molto vasta e una necessità inferiore di ricorso al mercato rispetto ai concorrenti del mercato della televisione gratuita potrebbe creare distorsioni sia nell'acquisizione dei contenuti di natura commerciale che nell'offerta stessa di spazi pubblici, di spazi pubblicitari televisivi. Per questo, conclude Pitruzzella, si auspica che la bozza di convenzione possa essere modificata, va predisposta una contabilità separata, ma che è solo un livello minimo di garanzia, perché nei contratti di servizio deve essere necessario definire forme più incisive di separazione. Come vedete, la canzone che suona l'antitrust sulla RAI è molto diversa dalla considerazione sulla concorrenza che spinge il governo a dire il tetto di retribuzione non si applica alla star della RAI. Queste le premesse per capire come la pensate voi su questo e soprattutto per capire come la pensano i nostri ospiti, che vi presento subito e ringrazio di essere qui con noi oggi pomeriggio. Abbiamo chiamato, non è la prima volta, lo facciamo spesso, è punto di riferimento per noi, il professor Marco Gambaro, che insegna economia dei media all'Università Statale di Milano. Buon pomeriggio e grazie di essere qui, professore. Buon pomeriggio a voi. E Paolo Conti, giornalista del Corriere della Sera, grazie anche a te per tornare ai miei microfoni. Grazie a voi, buonasera a tutti e buon pomeriggio. Paolo, posso cominciare da te? Perché tu hai scritto su un settimanale che in realtà l'idea del tetto applicato a conduttori e star della RAI, secondo te, aveva senso. Perché? Guarda, ha senso, naturalmente quella era una provocazione come sempre, queste rubriche che firmiamo, ma assolutamente credo che abbia un senso. Noi paghiamo lo scotto, non voglio fare lo storico della televisione, ma di questo si tratta. Il mercato dei divi televisivi, tu lo ricorderai, ma credo che anche i nostri ascoltatori lo ricorderanno, impazzì quando la RAI cominciò a seguire pedissequamente, senza alcun senso critico, la concorrenza intelligentemente aperta da Berlusconi con la sua offerta privata, e non capì che l'unica strada per battere la concorrenza privata sarebbe stata esattamente quella di ritrovare l'anima, l'identità, lo scopo, il ruolo del servizio pubblico e sottrarsi contemporaneamente a una impossibile battaglia sull'offerta commerciale. Allora, in quel momento, noi, te lo ricorderai e se lo ricorderanno in tanti, furono rilanci a suoni di miliardi di lire, parliamo ai tempi. Ai tempi, perché stavasi a parlare di nomi come, cioè, storici, sì, la televisione, Pippo Baudo, Buongiorno, Pippo Baudo, eccetera, eccetera. Pianello e Mondaini, eccetera. Allora, naturalmente adesso noi assistiamo e purtroppo viviamo dei cascami di questo errore storico. Detto questo, io credo che la RAI abbia il dovere in qualche modo di trovare anche un senso etico, non per una forma di giansenismo televisivo, per carità, non è questo il punto, ma noi sentiamo spesso delle cifre, non mi va di fare nomi, però di presentatrici della mattina o di signore che ogni tanto lasciano la RAI perché hanno messo delle magliette anni fa poco decenti, poi ritornano e non hanno, sono sincero, una professionalità tale da giustificare un dei prezzi così alti. Credo che qualsiasi presentatrice mediamente dotata di un italiano accettabile, di una prontezza di riflessi, potrebbe tranquillamente prendere il loro posto e quindi penso che un riequilibrio dei costi, dei compensi, potrebbe prima di tutto, e qui concludo, interpretare forse al meglio un sentimento che si avverte nella società, chiaramente di un impoverimento collettivo che non giustifica questi compensi milionari in euro, e dall'altra anche ritrovare un'offerta. Noi abbiamo visto recentemente il caso di una trasmissione chiusa dal direttore generale, ecco, io penso che quella trasmissione sarà una ferita che si chiude rapidamente, per cui non penso, diciamo, lo strumento espressivo che è la RAI sia più forte di tanti interpreti. Allora, tu rimani della tua idea, il compenso meglio tenerlo piuttosto che invece derogare, come sembra risposto oggi il governo, sulla base del parere dell'avvocatura, che dice, beh, altrimenti non è in grado di fare concorrenza alle televisioni commerciali, che però non hanno il canone. Che pensa su questo preciso punto il professor Gambaro? Penso che la RAI, così come le altre organizzazioni, non hanno molta possibilità di riuscire a pagare meno le star che utilizzano. Quelle che pagano alle star non sono salari, ma sono rendite. Questi creano, nella misura in cui le star creano un valore, cioè attraggono ascolto e investimenti pubblicitari, si prendono una parte della rendita e non c'è tanto modo di evitarlo. Se per caso io pago dei compensi sproporzionati a delle star che non hanno questo ruolo, cioè se è vero, come sosteneva prima, che qualsiasi straccio di presentatrice è in grado di fare lo stesso risultato, allora semplicemente non sono capaci di gestire la televisione. Però è molto difficile mettere un limite. Il problema però mi sembra che la strategia di un tetto ai compensi sia una risposta un po' sbagliata a un problema concreto, sia per quanto riguarda la RAI, ma più in generale il settore pubblico. Nel senso che io cerco di limitare gli sprechi nel settore pubblico ponendo un tetto, e col risultato che in molti casi dove il tetto non è applicabile o dove è inutile provo degli strani arzigogoli per superarlo, e allo stesso modo sotto al tetto non incido sul costo del lavoro elevato. Il problema della RAI, ad esempio, è che per gran parte delle posizioni gli stipendi sono mediamente più alti che nel settore privato, e su questo però il tetto non incide, e il tetto incide su alcune posizioni apicali che hanno una ridotta importanza nel costo del lavoro complessivo, e non risolve il problema dell'uso di queste risorse strane che sono le star, che nella televisione, così come nel cinema, così come nella musica, così come neanche nella musica lirica, sono pagate a dei livelli che, quando si guardano le cifre così, sembrano fin troppo elevati. Quindi, insomma, in sintesi estrema, lei dice la deroga ha più senso che no, Anche se sì, dice, deroga, il problema del costo del lavoro complessivo esiste. No, no, no, ho capito perfettamente, hanno capito anche i nostri ascoltatori. Adesso allora ci prendiamo un minuto di traffico e poi dopo andiamo invece alla vostra opinione di Paolo Conti e Marco Gambaro sul tema sollevato da molti anni, invano, perché i partiti non ascoltano quello che dice l'antitrust, sul punto: ma va separata l'attività di servizio pubblico, una volta che la definiamo bene, da quella commerciale, perché il servizio pubblico deve finanziare, il canone deve finanziare solo il servizio pubblico. Sbaglia l'antitrust? Sentiremo come la pensate tra poco, intanto traffico. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta... La versione di Oscar. Eccoci qui tornati con i nostri due ospiti, il professor Marco Gambaro e Paolo Conti del Corriere della Sera. Abbiamo visto la loro opinione sul tetto che salterà alle star della RAI, però il problema posto da Pietruzzella e dall'antitrust è un problema chiaro. Dice: c'è il canone, per non distorcere la concorrenza delle TV commerciali che non hanno il canone, andrebbe definita nella convenzione precisamente l'attività di servizio pubblico, il canone dovrebbe servire solo a quella, e quella di intrattenimento, per carità, la RAI la vuole fare, ma la finanzia a quel punto non con il canone. Che pensa Paolo Conte di questa precisa opinione? Ma guarda, io penso una questione che da anni vorrei attribuire la paternità di quello che sto dicendo, perché io purtroppo è dal 93 che mi occupo di questo tema, dico purtroppo perché gli anni passano e c'è sempre un bilancio. Giovanni Minoli da anni va teorizzando che alla RAI occorra dividere anche decisamente con un segnale visibile mentre il telespettatore smanetta con il telecomando ciò che viene prodotto dai proventi del canone versato dai telespettatori e ciò che invece viene finanziato dalle attività commerciali, cioè dagli spot e dalle sponsorizzazioni, tutto quello che noi sappiamo. Ora, io credo che sia dovere della RAI, da questo punto di vista, non rischiare e non barare da un certo punto di vista, perché ci sono ovviamente delle trasmissioni, inutile che stiamo a raccontare quali, sono un nemico storico dei reality applicati alla RAI, perché io penso che il servizio pubblico abbia il dovere etico di raccontare la realtà e non dipingerla, mentre noi sappiamo perfettamente che i reality impongono modelli di comportamento su copioni prescritti in partenza, ma questa è una mia opinione. Detto questo, io credo che, faccio l'esempio, Alberto Angela, che ci racconta San Pietro, che ha fatto il recente record su Rai 1, e sia materia da finanziamento da canone, del canone, certo. Invece altre cose che sappiamo, che non mi va di elencare perché io non sono uno che ha dita hai esposto un'opinione chiarissima. Ricordo chi ci ascolta che quei canali della BBC che rientrano nella Royal Charter, cioè nell'equivalente della nostra convenzione di servizio pubblico, quelli non hanno pubblicità, gli altri sì, quindi BBC World eccetera eccetera e gli altri, ma quelli della Royal Charter no. Che pensa il professor Gambaro? Ma sì, mi sembra che stia venendo al pettine questo strano ibrido della televisione italiana, in cui questa scelta di fare una televisione finanziata in modo misto da canone pubblicità, che aveva senso e che è stata anche un aspetto di forza della televisione italiana fino agli anni 90, col tempo ha mostrato un po' di debolezze. Mi sembra che però sarebbe stato necessario, in occasione del rinnovo della convenzione, avviare una discussione pubblica su cosa deve essere inteso per servizio pubblico. Era promessa quella discussione, ma non c'è stata. E invece questo non è stato fatto. È un peccato, perché effettivamente il senso del servizio pubblico è probabilmente cambiato da quando c'era il maestro Manzi o da quando la RAI insegnava l'italiano a un'Italia regionalizzata dei dialetti negli anni 60, però questo richiede discussione, accordi e in qualche modo una condivisione di quello che deve essere. anche perché finanziamo sul fatto che alcuni programmi siano decisamente nell'area del servizio pubblico, siamo probabilmente tutti d'accordo, ma quando si arriva al limite, cioè si dice a questo punto questo non è più servizio pubblico ma sta di là, su quel limite bisogna stabilire una regola, e stabilire questa regola richiede che ci sia un accordo, che è un accordo politico oltre che culturale, su cosa debba intendersi come appunto servizio pubblico. Questa è la cosa che andrebbe fatta e quello che non è stato fatto. È chiaro che l'antitrust, è chiaro che peraltro va anche notato un'altra cosa, toccare l'equilibrio della RAI tra canone e pubblicità richiede di ridisegnare il sistema televisivo italiano. Sì. E in modo complessivo, tenendo conto di come è fatto il mercato adesso, com'è la rete che fa concorrenza, esatto, a tutti adesso, quali sono gli equilibri, che è un lavoro complicato, difficile, rognoso, che richiede di litigare con tutti, ma che non può essere bypassato tanto facilmente. Quindi è giusto notare come nella RAI vada scisso in modo più chiaro, perché questa divisione contabile è sempre stata fatta in un modo che ha fatto sorridere, totalmente anche, opaca, esatto, ha fatto sorridere chiunque. E però è un compito molto difficile e politicamente complesso. E lo so, c'è la politica di mezzo, la solita storia che sappiamo, però noi continuiamo a prendere a calci il barattolo e una volta che sappiamo le soluzioni verso le quali andare non le imbocchiamo mai. Per quanto complesso, e siamo in una realtà multimediale, c'è la rete eccetera eccetera, anche di questo si occupa Petruzzella come ovvio, però la politica non trova mai tempo per questo e tutto si eterna. Allora, vi leggo nel frattempo una dichiarazione di Giacomelli, segretario delle comunicazioni, che dice: ritengo che l'estensione del tetto agli stipendi degli artisti, aspettate che naturalmente mi si è bloccata la cosa proprio adesso, sia improprio. Ora c'è un parere dell'avvocatura dello Stato che lo sostiene in maniera più autorevole di me, quindi come vedete c'è la piena conferma di quello che vi abbiamo detto. Sentiamo come la pensa Stefano da Milano, che ci ha chiamato. Stefano, prego. Buongiorno Oscar, a lei e ai suoi ospiti. Ascoltatori e ospiti, grazie. Senta, volevo fare un parallelo al calcio. Ci sono giocatori che militano in team molto importanti che guadagnano degli ingaggi impressionanti. E la stessa cosa si può fare un parallelo con gli artisti televisivi, in quanto il giocatore fa i gol, facendo i gol porta gente allo stadio, gli sponsor mettono i soldi e tutto il giro del fumo è virtuoso. La stessa cosa mi ricollego a quello che diceva il professor Gambero. Questa rendita a un artista che in televisione fa fare audience alla rete e porta alla concessionaria di pubblicità a fare degli incassi, non vedo per quale motivo Rai si debba privare di personaggio A piuttosto che del personaggio B. No, ma è chiarissimo. Il problema è però che basta che per me basta che le separiamo le attività, cioè chi porta pubblicità sono a favore di premiarlo, però deve essere chiaro che non ci può essere un improprio sostegno di sussidi dal canone pubblico. Questa è mia banale cosa. Taciteremmo qualunque problema, perché a quel punto sarebbe limpido e cristallino il ragionamento. Andrea da Salerno, come la pensa? Buonasera, io la penso esattamente come lei e come il professor Gambero, nel senso che le due cose devono essere distinte nettamente. D'altronde poi lei lo ha detto, insomma, c'è una evidente distorsione della concorrenza, perché la RAI in questo momento è in posizione dominante, cioè ha dei privilegi che le TV commerciali non hanno, ma soprattutto secondo me dovrebbe riprendere una cosa che sa fare molto bene, cioè il servizio pubblico, cioè quel poco che è rimasto è di alta qualità. Ma ormai io credo che tutto il resto sia soprattutto... Allora, diciamo... grazie anche ad Andrea, come si vede le opinioni sono in un ventaglio vasto. Io devo solo una risposta ai molti che mi chiedono: ma perché non rispondi a Gaspari che tutti i giorni in televisione ti insulta sui vitalizi? Molto semplice, perché in assenza io non parlo, a differenza dell'onorevole Gaspari, considero i suoi insulti per la mia posizione sui vitalizi parlamentari una medaglia al valor civile. Continui pure e le mie medaglie aumentano, non gli rispondo sugli insulti.